Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Oggi parliamo di Pasqua, in realtà parliamo di un prodotto tipico della Pasqua che è la focaccia. Siamo abituati nel periodo pasquale ormai a parlare di colomba, ma soprattutto nella zona centrale del Veneto una volta si faceva la focaccia e c'è ancora chi la fa. Oggi abbiamo come ospite Luca Fraccaro dell'omonimo pasticceria, diciamo, che come prodotto di punta ha proprio la focaccia pasquale. Intanto vorremmo sapere un po' cos'è, un po' la storia di questa focaccia. Buongiorno, sì, sotto Pasqua, come ha detto lei, c'è la colomba che è un prodotto tipico italiano. Noi nella nostra area, giustamente come ha detto lei, siamo più orientati ad avere la focaccia, questo dolce come tipico della Pasqua. Sicuramente non c'entra nulla con la focaccia toscana o genovese, ma è sostanzialmente un dolce. Da dove nasce questo dolce? Questo dolce nasce un po' dalla nostra storia. Una volta tutti avevano in casa i forni a legna in questi grandi casolari in cui ovviamente lavoravano lievito madre e si facevano il pane. Durante la festività, durante le feste di Pasqua, avevano un po' di uova in più, un po' di miele, un po' di burro. E allora ecco che hanno detto, vabbè, proviamo a fare un pane un po' arricchito con questi ingredienti nobili, tra virgolette, dati dalla terra che avevano a disposizione. E così nasce questo impasto che deriva proprio dal pane, arricchito con questi semplici ingredienti, e nasce la focaccia, nasce così la focaccia, un dolce tipico del territorio. Ecco, noi abbiamo chiesto a voi di parlarci della focaccia non a caso, ma perché la fate in un modo che ci rimanda ancora ormai un'ottantina d'anni fa, cioè state utilizzando un prodotto che arriva dal 1932. Sì, il nostro ingrediente, il nostro speciale ingrediente, io lo chiamo anche il nostro tesoro, è proprio l'ingrediente principale che è il lievito madre. Dal 32, perché siamo nati come panettieri, allora ovviamente non esisteva altro lievito che quello, e quindi da allora utilizziamo e non l'abbiamo mai perso il lievito madre, che ripeto è un lievito vivo, e che va curato ogni giorno come se fosse un bambino. Con questo prodotto qui noi lo utilizziamo per produrre le colombe, ma ovviamente anche le focacce, che si diceva prima, focacce, e poi tutti i nostri prodotti sia da ricorrenza che non. Ecco, questo è il nostro segreto. Voi con questo lievito madre fate anche i prodotti natalizi, per esempio i panettoni. Siete stati scelti dallo Slow Food quest'anno per fare il panettone Slow Food. Sì, esattamente. Per noi è un grande orgoglio, è un grande onore, perché siamo stati selezionati da questa associazione importante per fare il primo panettone a co-brand assieme, in cui anche loro mettono il loro marchio, il loro logo. E abbiamo studiato assieme un panettone molto particolare, in cui all'interno abbiamo ben tre ingredienti dei presidi. Questi presidi all'interno di questo panettone sono la vaniglia del Mananara, che è una piccola riserva del nord-est del Madagascar, poi abbiamo il limone e l'arancio canditi del fresco, che sono dell'IGP del Gargano, una zona IGP del Gargano, quindi veramente speciali. E poi come ultimo ingrediente caratterizzante, perché volevamo dare una caratterizzazione particolare al panettone, abbiamo inserito un dattero dell'oasi di Siwa. Siwa, che è una località, questa oasi in mezzo al deserto egiziano, in cui la particolarità sta proprio nel terreno, nella sabbia, quindi, perché una volta c'era il mare, quindi ha lasciato tutta la salinità, e questo produce un frutto che ha la caratteristica di essere poco dolce. Ci fermiamo adesso per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando della focaccia, tipico dolce pasquale del Veneto, e lo stiamo facendo con Luca Fraccaro, titolare dell'omonima pasticceria a Castelfranco. Torniamo alla focaccia. Come si prepara e quali sono le principali fasi? Quanto tempo ci vuole? Quanto tempo lievita, per esempio, questa pasta madre? Quanto tempo deve cucinare? Da quando iniziate a quando finisce? Noi ci mettiamo da quando partiamo col primo lievito, quindi proprio dal lievito madre, dal primo fino alla fine, quando viene confezionata, ci mettiamo circa 3 giorni. Questo perché noi vogliamo che tutte le fasi vengano rispettate come si faceva una volta. Un'altra cosa importante che ci tengo a dire è che dalla ricetta originale, da quando è stata creata la prima focaccia in Fraccaro, noi non abbiamo mai cambiato la ricetta. Anche l'aromatizzazione, gli aromi sono rimasti sempre quelli. Quindi chi si ricorda la focaccia che l'aveva mangiata 30 anni fa o 40 anni fa, gli viene in mente lo stesso gusto. Ecco perché noi ci teniamo molto a fare sempre comunque, ad avere una storicità in questo. E quindi la facciamo esattamente come ci hanno insegnato i nostri padri e allora i nostri nonni. Ripeto, ci mettiamo 3 giorni a farla, la lavorazione è molto lenta, lasciamo tutte le fasi delle varie lievitazioni che siano in maniera naturale. L'ultima lievitazione prima di andare in cottura dura circa 12 ore e poi anche il raffreddamento lasciamo che raffreddi tutta la notte. Quindi ci sono dei cicli molto lunghi proprio perché non vogliamo forzare quella che è la naturalità del prodotto. Ultima domanda, so che i vostri prodotti vanno anche all'estero, in particolar modo in Francia. Come mai in Francia mangiano panettone, forse anche colombe? In Francia, a dir la verità, il mercato che noi stiamo aggredendo in maniera importante è quella del biologico, perché da 15 anni ormai stiamo facendo una produzione importante di biologico e ogni anno stiamo crescendo. In Francia perché in Francia c'è molta cultura del bio e piace molto il panettone, quindi stiamo crescendo molto per questo motivo. Vi ricordo che in Francia, per chi non lo sa, in Francia il panettone viene sentito come dolce anche, come dire, da tutti i giorni, quindi un po' staccato da quella che è la ricorrenza pura, quindi si vendono anche tutto durante l'anno. Lo stesso anche l'Inghilterra un po' è così. Ecco, possiamo dare un sito internet e dire dove siete come azienda? Voi avete anche uno spaccio aziendale? Abbiamo uno store legato a un caffè dove c'è l'azienda, quindi via Circonvallazione a Castelfranco Veneto. Potete acquistare i prodotti anche online sul nostro shop, basta andare sul sito www.fraccarospumadoro.it. Grazie. Andiamo a terminare questa trasmissione con alcune notizie e appuntamenti. Il primo già domani è a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova, dove nell'ambito del progetto Alter Energy, finanziato nell'ambito del programma transfrontaliero IPA Adriatico, il cui obiettivo principale è la promozione e informazione sulla sostenibilità energetica, saranno organizzati 2 incontri pubblici. Domani, appunto 26 marzo, dalle ore 16, si parla delle varie forme di incentivazione attualmente a disposizione e a seguire dei certificati bianchi, cosa sono e le opportunità offerte dal mercato dell'energia. Il 27 marzo, dalle ore 20:30, il tema è A scuola di bolletta, imparare a leggere una bolletta per capirne i contenuti e i possibili risparmi. Passiamo adesso a parlare della settimana dell'ambiente Veneto che si sta tenendo appunto questa settimana. Suolo, acque, terme, scuole, foreste e cibo sono al centro dell'edizione 2015 di questa settimana, organizzata in particolare dalla Regione Veneto e dall'Unione Veneta Bonifiche. Tra le novità di questa edizione, gli eventi non si concentrano in un'unica sede ma sono diffusi per sottolineare meglio le peculiarità del territorio veneto. Un'attenzione particolare ha il tema del suolo, al quale è dedicato l'anno internazionale proclamato dall'ONU. Strettamente correlato poi alle tematiche del cibo, attorno a cui ruoterà la prossima Expo di Milano. Con l'iniziativa Porte Aperte, fino a domenica 29 marzo, è invece possibile visitare alcuni luoghi significativi dell'ambiente e della nostra regione, tra cui l'oasi di Cadimezzo a Codevigo, il bacino di fitodepurazione di Monselice, le cave di Gaggio e di Noale in provincia di Venezia, la palude di Onara, le sorgenti dell'acquedotto Schievenin, la centrale idroelettrica Marchesini di Valdagno, il giardino litoraneo di Rosolina Mare, il centro meteorologico di Teolo e il centro valanghe di Arabba e poi ancora altri luoghi che non abbiamo tempo di nominare. Tutte le informazioni, il calendario completo lo si trovano sul sito internet della Regione Veneto e dell'Unione Veneta Bonifiche. Infine, una notizia: sono stati consegnati nel Vicentino i lavori appaltati dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta per realizzare sul fiume Agno Guà l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e di Tezze di Arzignano. L'opera rientra nel piano complessivo per la mitigazione del rischio idraulico sul territorio regionale e riguarda il bacino di Monte, localizzato tra le località appunto di Trissino e Cinto di Arzignano. Qui è previsto un volume massimo invasabile di oltre 2 milioni di metri cubi su una superficie di circa 55 ettari. I costi? Allora, il costo complessivo del progetto è di oltre 23 milioni di euro, di cui 5,5 milioni saranno recuperati dalla vendita del materiale scavato e il resto del finanziamento è a carico della Regione Veneto per 17,6 milioni di euro. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima. Se volete ci potete riascoltare in podcast sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.